Kudaka Nigaya Iti Buddha Palido Stota Waga Namachau Adubanu Patito Iti Tanavu Pono Jito Miaswapyadi Horomu E Buzo Tuo Kano Murai To Miaswapya Horomu E Hu Achano Jana Gaya Vadi Yahanu Kanago nai Aduba Chiyago Shulia Nijagolo Anapana Dri Dile Tenoi Kamata Ayo nai Sheshu Dizi Jagolo Alonso no Tenkara Diaro nai Nesahu Shulia Nijagolo Yahanu Kanago nai Aduba Chiyago Shulia Nijagolo Dura Tenderi Apiehudo Tuba Dajan Yaga kain wumu, yaga nodradi, kempiao i. Ana banadri kamatan ayo nai. Sheshu di mujang. Apapya gondo. Senyajin pushi gondo. Alusana adayado, asin laita di. Mesa vita do di, mapyapogo. Alonso no tenkara diaru nai. Anesa hu shulia nija gondo, dudu a. Aweza moha kempiao yue, weza nyan pshepo yi, yi anet bogo, miaswa pya horo mu yi. Thutou nai, yi anet bogo, ki leda wo buban zita to, long la shi to, katin gongzwa mien no to yahan di, kanago nai, adupa chenya wo shu di pshe yue lakao, wenda twata nai, teno dri shi di pshe yue lakao, Alonso no tenkara rui chongye mugu, shu di pye yue lakao. Tu alonso no tenkara rui chongye ya nai, arahata, pala wimo di pye, lo miao yi. Tu jiao, tu yahan di, abinyan kisa bisong bi pye yue, nyin yi bi lin. Yoga li ba gu lo miao bi du pye to yi hu, yi ka ta pye, su a yi. I anet bogo le miaswa pya ho a yi hu achano jana gaya wadi. Adubanu padi to bi yi.